Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, arrivano le prime notizie dai ritiri, notizie sulla giornata di campionato in programma domani sera, la prima infrasettimanale di stagione. Per esempio Xavier Zanetti è a riposo, ha effettuato dei controlli medici, c'è un modesto pneumotorace post-traumatico, ma che comunque su prescrizione medica gli comporterà il salto di due turni di campionato, e cioè il Bari domani sera e poi la partita dell'Olimpico contro la Roma nel prossimo turno. Roma che non avrà a Brescia né Totti né De Rossi, che non sono tra i convocati appunto per questa trasferta. Tengo d'occhio le agenzie, evidentemente in attesa di informazioni ulteriori su questa vigilia di campionato, fermo restando che il martedì prevede inizialmente uno spazio internazionale e quindi il bentornato a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. È stata la domenica di Leo Messi, oggettivamente non poteva che essere così, visto l'infortunio che gli è toccato, visto a par mio un brutto ma non criminale intervento di Uifalusi e visto che insomma in Spagna è sempre vivo il ricordo di Goicoechea e di Maradona, anche se sono passati tantissimi anni, era l'83, quindi sono la bellezza di 83 di 27 anni. Questo significa che se tocca un incidente, ripeto, a parer mio non così vigliacco e non così premeditato, ma all'erede di Maradona, o comunque al giocatore che più gli è somigliato in questa epoca, era normale che si scatenasse un po' di caos mediatico. A che punto è la Spagna su questo argomento? Beh, intanto diciamo che le condizioni di Messi per fortuna sono discrete, quindi tra 15 giorni se la caverà. Credo Gigi che abbia fatto molto più impressione vedere in foto, una foto che hanno pubblicato Marca, AS, il Mondo Deportivo, con l'intervento di Uifalusi, che non è un giocatore conosciuto per essere, giocatore duro, intendiamoci, sì. Però non di quelli che colpiscono premeditatamente, anche se poi magari ci sarà qualcuno che troverà una casistica una volta nella quale Uifalusi ha colpito così, però sinceramente non è conosciuto con quella fama, con quella nomea. Ti faccio un brevissimo inciso, ho letto stamattina un'intervista a Prandelli in cui diceva che ha visto questo brutto fallo di domenica e non voleva credere che fosse Uifalusi, giocatore che ha avuto lui per un po' di anni a Firenze. No, infatti era corroborata dall'opinione di Prandelli, la mia idea, nel senso che è molto più alta evidentemente quella di Prandelli, che l'ha conosciuto anche personalmente. Detto questo, vedere in prima pagina su tutti i giornali la caviglia destra di Leo Messi quasi piegarsi, c'è una torsione del piede, lì il fotografo è stato veramente bravissimo, credo sia una delle foto dell'anno, credo che abbia fatto una sincera impressione ed è per questo che si è scatenata soprattutto la stampa catalana. Io devo dirti, dal vivo è sembrato un intervento duro, un intervento da punire con il rosso diretto, e mi ha anche abbastanza indignato. È evidente che al 94esimo così forse fa venire anche un po' più di rabbia, perché la partita, anche se era ancora in bilico sul punteggio, era comunque finita e quindi non c'era motivo per un intervento del genere. Io poi non so se Messi abbia un po' provocato Uifalusi, no Fabio, ho visto benissimo la partita, Uifalusi non era provocato da Messi, anzi assolutamente, era arrabbiato perché poco prima si era spinto in area avversaria e c'era stato un episodio su cui l'arbitro, secondo me, ha fatto benissimo a non fischiare, ma insomma avrebbe anche potuto, volendo, fischiare qualcosa. Provo a girare l'argomento e poi ovviamente lo accantoniamo, anche perché è datato. Da tifoso del Barcellona di Messi erano 5 minuti buoni che, vedendolo stanco e avendolo visto rifiatare a bordo campo poco prima su una palla persa dopo aver fatto magie per 90 e passa minuti, ho visto alzare un cartello da Guardiola, non ho visto bene il numero ma ero certo che sarebbe stato il suo, perché secondo me Messi di quegli interventi a Uifalusi ne salta 5 o 6 se non 10 a partita, nel momento in cui però sei stanco e ti manca il riflesso, questi che la gamba te la lasciano, una volta o l'altra ci lasci la caviglia tu. Lui l'ha sempre detto che è così piccolo e quindi deve essere così veloce, più veloce degli altri, perché è quasi una caccia all'uomo. Adesso detta così sembra molto più, può far spavento, però effettivamente è così. Cioè, tutti sognano, tutti i difensori sognano, non certo di azzoppare Messi, ma di annullarlo, di cancellarlo dal campo, insomma di renderlo inoffensivo, è quello il loro trofeo. e a volte effettivamente ci vanno giù un po' duro, insomma. Con Fabio Tavelli potremmo parlare, non lo so, per esempio di Berbatov, perché tre gol e quindi di conseguenza il pallone che ti porti a casa, come usa l'Inghilterra in Manchester-Liverpool, cioè nella massima sfida inglese, è indubbiamente un'impresa. Ma preferirei invece soffermarmi su questa strana coppia, strana fino a un certo punto, Cigarini-Guarente, la coppia del Siviglia, la coppia di centrocampo, che... è stata determinata nella partita di domenica contro il Malaga e comunque a parer mio, insomma, amplia l'offerta di alternative proprio anche per Prandelli, no? Perché esperienze internazionali di quel livello fanno maturare giocatori interessanti. Su questo non c'è dubbio, anche perché possono giocare con una pressione diversa. Io trovo che loro due siano dei giocatori certamente interessanti, non dei campioni, perché no, i campioni sono diversi, però dei giocatori che a livello di un reparto come quello di centrocampo, che insomma non è che ultimamente abbia partorito dei fenomeni, io trovo che Cigarini in un senso e Guarente in un altro, sono due giocatori di diverse caratteristiche ma ugualmente capaci di incidere, ma io credo che siano due buonissime notizie per Prandelli. Sono anche abbastanza sicuro lui li tenga nella dovuta considerazione. Guarente ha un mancino sempre molto interessante, anche nella botta da fuori e anche nei calci di punizione che spesso riesce a calciare verso l'area, e Cigarini è comunque un giocatore di interesse perché è un giocatore che è già entrato nel giro delle nazionali Under 21 e quindi sono abbastanza sicuro che torneranno migliorati, se torneranno, a meno che non decidano di restare tanto tempo all'estero, però in chiave nazionale è una ottima notizia. Senti, sta settimana invece, poi magari lo rimandiamo alla prossima, non so, il Magonza, l'Offenheim, il Rennes, il Saint-Étienne, insomma, c'è Offenheim-Bayern di Monaco tra l'altro, bellissimo. Anche la Bundes fa il turno. Adesso poi ci racconti quali sono le tappe, cioè gli appuntamenti principali di oggi e domani nei vari campionati europei, ma ripeto, più che non questa alternanza di potere, l'abbiamo già fatto la settimana scorsa, incuriosisce il fatto che così come in Italia sul fondo c'è l'Udinese e poi insomma, Palermo, Fiorentina, Roma, sia in Germania addirittura ultimo con 4 sconfitte su 4 lo Schalke di Magath, perché lo Schalke l'altro anno ha conteso lo scudetto fino all'ultima giornata al Bayern. Poi ha preso Raul, che può essere anche un giocatore a fine carriera, ma ha speso un sacco di soldi per Untelar, che ha fatto il suo primo gol domenica in poi un gol inutile perché aveva preso da 3-1. Io trovo che le ore di Magath sarebbero contate in un'altra società, perché poi domenica i tifosi sono usciti dallo stadio, cioè i tifosi dello Schalke 04 sono veramente molto molto appassionati, lo stadio è sempre pieno e perdere il derby per loro è veramente bruttissimo. Il problema qual è? È che il potere di Magath è amplissimo nella società Schalke 04, lui è di fatto il responsabile di se stesso, non è detto che non possa venire cacciato dal presidente. Però diciamo che ha un potere manageriale molto molto ampio e di fatto è il direttore generale della società, quindi è difficile che voglia mandare via se stesso. Sì, credo anche che non possa essere così brutto lo Schalke 04 come in queste prime giornate. È anche vero che il distacco dalle prime non è amplissimo, perché stanno un po' zoppicando tutte, anche il Werder Bremen ha perso in casa, il Bayern di Monaco è partito piano, quindi è una situazione che può essere ampiamente rimediata. Però è certamente inconsueta, così come è inconsueto per il campionato tedesco. Se pensi che fino alla scorsa settimana anche lo Stoccarda aveva 0 punti, poi si è scatenato in una goleada. Quindi mi aspetto che nel giro di poco lo Schalke 04 cambi registro e torni ad essere protagonista, però è certamente un inedito trovarla lì, soprattutto a 0 punti. Certo. Senti, chiudiamo allora con la segnalazione di qualche appuntamento infrasettimanale anche là, si gioca anche là, cioè anche in Spagna, per esempio in Germania, in la Coppa di Lega in Inghilterra, cioè si gioca anche altrove, insomma, non solo da noi. Guarda, segnalo Arsenal-Tottenham di Carling Cup e tra l'altro segnalo anche la squalifica a Wenger. Uh-huh. E domenica ha preso gol al 95esimo con qualche secondo dopo il 94esimo, perché erano considerati 4 i minuti del quarto uomo. Lui si è scagliato contro il quarto uomo, gli è proprio andato fisicamente addosso. Vedete che Wenger è una delle persone più civili del mondo, però ogni tanto, non sbrocca. È la prima volta, sì. Parte veramente qualcosa di strano, sbrocca... misterioso, di insondabile per noi, e si macchia di questi comportamenti che non sono assolutamente i suoi, no? È veramente incredibile questa, certo, cosa. Senti, però brutte notizie per l'Arsenal, Fabregas ne ha per almeno tre settimane tendine al ginocchio, sì. E tra l'altro l'Arsenal Arsenal è un'infermeria ambulante, perché fai prima a mettere in campo idealmente quelli che sono infortunati rispetto a quelli che giocano, e succede così da un po' di tempo, e quindi ho anche il sospetto che ci sia qualcos'altro, anche se quello di Fabregas è un trauma, perché è stato toccato durante il ginocchio. Però insomma, non è un buon periodo per Fabregas, ho il sospetto che da quando la sua strada è stata considerata e accostata in maniera così netta, non abbia visto le sue sfortune sia fisiche che altro, perché poi stiamo parlando di un campione del mondo che non ha praticamente mai giocato. Questa sera c'è lo Schneim contro il Bayern di Monaco, c'è la partita di Carlo in campo dell'Arsenal contro il Tottenham, c'è il Real Madrid, domani ci sarà il Barcellona contro lo Sporting di Lyon, e credo che insomma ci si possa anche divertire. Non c'è nessun dubbio, in attesa del turno dei campionati domani sera. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento con la redazione di Sky Sport 24. Cigherini e Guarente, segnala Andrea da Catania, giocavano insieme nell'Atalanta di Del Neri. Beh, insomma, vuol dire che non è una novità, vuol dire che a Bergamo i giocatori li sanno crescere proprio, che poi Del Neri li sa fare maturare e lanciare, non è certamente la prima volta. Max da Udine scrive: i dirigenti della Lega non si smentiscono mai, prima si svendono alle TV, poi si dissociano dalle partite alle 12:30, sono ridicoli. Mi sembra una buona definizione e mi dà l'aggancio, come dicono quelli bravi, a un bel titolo di stamane sulla Stampa. A proposito di proteste di dirigenti, ma di proteste scomposte, villane, eccessive come sempre, a carico, cioè nei confronti degli arbitri, il titolo è una tessera per i dirigenti. Ora, questo titolo è, a parer mio, ancora un'eredità lasciata da Roberto Pecantini prima della sua pensione, avvenuta del suo pensionamento, avvenuto il 31 agosto scorso, perché ricordo bene che Roberto in più di un'occasione, ai tempi in cui si è cominciato a parlare di tessere del tifoso, ogni volta che sbroccava un presidente diceva: ma e la tessera per i dirigenti no? Insomma, stamattina Marco Ansaldo, che ha raccolto in buona parte anche i suoi spazi alla Stampa, ha scritto: insomma, i dirigenti del pallone non protestano per uno scatto di rabbia tifosa, ma perché calcolano gli effetti che le loro lamentele produrranno, segnano il credito a futura memoria. È sempre successo. Tuttavia, oggi che le persone per bene devono dimostrare di non essere delinquenti, insieme alla tessera del tifoso dovrebbero inventarsi la tessera del presidente, rilasciata soltanto per buona condotta. A proposito di arbitri, potremmo sentire Prandelli sugli arbitri, ma vedo già un ascoltatore collegato e cerchiamo di non farlo restare troppo in attesa. Daniele da Padova, buongiorno. Buon pomeriggio Garanzini. Io volevo sentire un'opinione da lei in merito a quella che è stata l'intervista della settimana scorsa sulla Gazzetta dello Sport di Leonardo e alla susseguente risposta di Galliani a commento. Io ho una mia opinione. Secondo me questo argomento comunque si ricollega anche con quello che ha detto prima lei in relazione, diciamo, ai dirigenti delle nostre squadre di calcio. Galliani secondo me è un ottimo dirigente, però questo episodio è stato sintomatico del fatto che insomma Galliani seppur di lusso, ma resta sempre un dipendente, mentre Leonardo, secondo il mio modo di vedere, secondo il mio punto di vista personalissimo, è una persona libera. Non volevo dire altro. La ringrazio e la saluto. Beh sì, così è un po' criptato. Leonardo la settimana scorsa, mi pare sia uscita sabato sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista di grande eleganza, di grande classe, come è nel personaggio non potrebbe essere diversamente, ma anche chiara, perché quando la domanda è arrivata sui suoi rapporti con Berlusconi, lui ha usato un'espressione abbastanza tranchant, ha detto che il problema di Narciso è quello di confrontarsi sempre e soltanto con il suo specchio, e l'ha chiusa lì, e l'intervistatore lo ha incalzato e gli ha chiesto che cosa pensasse delle critiche postume al suo operato. Berlusconi non ha perso occasione negli ultimi mesi per ricordare che il Milan non ha vinto i due ultimi campionati solo per esclusiva colpa di Ancelotti prima e di Leonardo poi, e Leonardo si è chiesto si è chiesto perché questo accanimento nei suoi confronti, che, visto che insomma, lui stesso non si era mai candidato a tecnico, ma era stata la società e Berlusconi stesso a insistere per questo allenamento. È stato duro, molto, molto duro, molto sobrio, ma molto, molto duro. Ma credo che ne avesse legittima facoltà, visto che si trattava di... Non è stato certamente lui a cominciare, ecco, questo mi pare lo si possa dire senza ombra di dubbio. Pierangelo ha chiamato dalla provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Buongiorno, dottor Granzini. Dica. Senta, sono un testimone oculare dell'arbitraggio di Rocchi di domenica a Cesena. Eh beh, quello ce lo siamo già visti. Rocchi ha pagato. No, però paga due volte quell'errore, mi scusi. Bravo, perché bravo. La prima l'ha pagato dovendosi scusare alla fine e dovendo cambiare referto, e adesso lo pagherà con uno stop che i suoi superiori hanno giustamente deciso per lui e per Rizzoli, per gli errori di Parma. Però io le dicevo questo: Rocchi, cioè la terna è in errore, però Rocchi domenica era piazzato benissimo, perché l'angolo dove è stato fatto il fallo era coperto dal segnaline, quindi lui è stato indotto. Ma quello che ha dato fastidio più di tutti sono stati il fair play di due giocatori del Lecce. Passiamo dal fair play di Sorrentino della parata contro il Pescia, che dice sì, l'ho toccato, e due giocatori del Lecce, quando hanno visto che l'arbitro era indeciso, il signor Rocchi, hanno insistito, cioè dicendo che era Colucci quello che aveva fatto il fallo, che fra Colucci e Nagatomo via c'è un po' di differenza via, di fisico, di tutto. Quindi quello che ha dato più fastidio a me personalmente come tifoso è il fair play dei giocatori, che è mancato il mancato fair play. Sì, non è anche questa, mi scusi Pierangelo, ma non è questa novità sconvolgente, no, in quelle situazioni. Io, per carità, non si sono certamente comportati correttamente i leccesi, e lo si è visto bene a caldo, no, su un campo e con tutto quello che ne consegue. Parlavamo prima di comportamenti di dirigenti, a freddo invece lo trovo molto più colpevole e molto meno responsabile. Nei due ultimi giorni su Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto un po' di straordinari. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Sul numero di domenica ci ha documentato il debito complessivo, anzi il fantadebito, così lo ha ribattezzato, della Serie A, che ha superato i 2,2 miliardi in totale per quanto riguarda le 20 società complessivamente, e poi arriveremo al dettaglio. Oggi ci ha raccontato perché lo sciopero dei calciatori è praticamente scongiurato, ma al di là di questo, che insomma, sì, ce ne saremo poi accorti tra sabato e domenica, ma il paese per il momento tutto sommato era in grado di resistere allo shock, però soprattutto ci ha documentato, noi lettori intendo per il momento, sul perché si sta arrivando ad un accordo e su quali punti e quali restano ancora invece le frizioni. Adesso lo racconti anche a noi in ascolto. Sì, mentre parliamo i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori della Lega di Serie A sono riuniti a Roma, e da questo conclave ci sarà poi una fumata bianca o grigia, con una o la revoca o la sospensione dello sciopero. In ogni caso si va verso appunto una regolare giornata di campionato, e i problemi che si erano manifestati nella trattativa sembrerebbero quasi o tutti risolti. Sì. Per esempio l'AIC aveva indicato due punti, due proposte come irricevibili, cioè quella sui fuori rosa e quella sui trasferimenti obbligatori per i calciatori all'ultimo anno di contratto. Su entrambe queste proposte la Lega farà un passo indietro, in particolare per quanto riguarda il trasferimento obbligatorio. Era palese peraltro da un punto di vista giuridico che non era difendibile, effettivamente. Fine in fondo, certo. Sulla questione dei fuori rosa la Lega sta insomma cercando di portare a casa qualcosa. Si dice, beh, in fondo già oggi ci sono i gruppi separati negli allenamenti tra attaccanti, difensori, centrocampisti, i recuperi, no, degli infortunati, i più o meno traumatizzati, l'AIC si può ragionare. Sì, l'AIC teme però che appunto gli allenamenti separati siano fatti per imporre in qualche modo un prolungamento di contratto magari non proprio voluto, o trasferimenti non proprio desiderati dai calciatori. Vi ricorderete forse qualche qualche anno fa un certo presidente di una squadra umbra che mandava i suoi calciatori che più lo infastidivano ad allenarsi sotto la curva dei tifosi, mi riferisco sì. al Perugia di Gaucci, certo. in maniera tale insomma che fossero bersagliati dalla tifoseria, insomma scene che speriamo di non rivedere più nel calcio italiano. No, sì. Anche personaggi che speriamo di non rivedere più nel calcio italiano, se è per quello. Quindi questi sono... Su questi due punti insomma la Lega farà un passo indietro, sugli altri sei invece sarà l'AIC, come in tutte le trattative che si rispettino, a cedere un po' quella che era la situazione precedente, insomma, ed accettare un'evoluzione che per la Lega è indispensabile, visto il tema del fair play finanziario e l'esigenza di far quadrare i conti, ma anche l'esigenza di avere una contrattualizzazione più moderna dei rapporti con i calciatori. Questo non significa che l'accordo verrà annunciato oggi, perché difficilmente ci si arriverà, ma vuol dire, se non ho capito male, no, che ci sarà una dilazione, ci saranno altri incontri e lo sciopero viene formalmente sospeso. Dovrebbe essere sospeso, ora vedremo questa sera. Forse aggiornato a un'altra data. Molto probabilmente, giusto per salvare la faccia, insomma, comunque per tenere in piedi lo stato di agitazione. Però, per esempio, uno dei temi che stava più a cuore alla Lega, quello del salario flessibile o più flessibile di quanto non sia adesso, sarà accolto dall'associazione dei calciatori, però sarà scaglionato in base ai guadagni. Chiaramente Ibrahimovic dovrà accettare una quota più ampia di flessibilità e quindi più rischi, mentre magari i giocatori che hanno stipendi un po' meno alti saranno accontentati e quindi la quota di fisso garantita sarà più alta. Insomma, si troverà una forma di equilibrio su questo, così come sulle cure mediche di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. La soluzione dovrebbe essere quella che il calciatore potrà scegliere il luminare a cui rivolgersi, ma appunto dovrà dimostrare che si tratta appunto di un professionista di chiara fama, e la società rimborserà solo le spese in qualche modo ritenute normali, quelle che avrebbe sostenuto se il medico lo avesse scelto da sola. La paura della Lega era quella dei famosi stregoni, insomma, che ogni tanto qualche calciatore si inventa e trova. Ah, ma questo appartiene alla storia del calcio e alla notte dei tempi, anche se è per quello. Nel frattempo l'AIC ha quasi portato a casa, pare, un contentino di passaggio, che però è un punto su cui i calciatori, i preparatori, soprattutto gli allenatori, non intendevano cedere, cioè sul rinvio della giornata del 6 gennaio per ragioni climatiche, ma non solo, cioè per ragioni di preparazione da rifare in quell'epoca e quindi di sosta invernale che serve a ripotenziare. Sì, qualcuno farà qualche giorno in più di vacanza, qualcuno ne approfitterà, certo, per rimettersi, certo. Ma insomma, su quel punto si stava discutendo e dovrebbe rientrare nella trattativa. Questo significa anche una ristrutturazione poi di calendario, perché il 6 gennaio, mi pare che la Befana il prossimo anno cade di giovedì, se non sbaglio, o di mercoledì o di giovedì, ma deve essere di giovedì, e quindi vuol dire che questa giornata andrà poi recuperata o in un altro infrasettimanale, oppure che il campionato, anziché il 22 maggio, finirà il 29. Ci porremo il problema a maggio, io credo, quando punto. Direi, giusto per chiudere sulle questioni aperte, insomma, se mi concedi su questo punto un altro minuto. Certo. C'era un problema, per esempio, legato alle attività extra calcio dei calciatori, cioè il calciatore che si apre il ristorante, ma pare anche sulla possibilità a questo punto di fare, per esempio, attività di promozione o la pubblicità. I volti dei calciatori ormai sono un fenomeno, cioè, usato nella pubblicità, diffusissimo, e pare anche molto redditizio. Anche su questo si sta discutendo se deve rientrare nel potere delle società di concedere il permesso di svolgere questo tipo di attività, e su questo punto la vittoria potrebbe essere proprio dei club, che parrebbero appunto essere aver ottenuto il riconoscimento di questo potere. Quindi i club dovranno e potranno autorizzare quelle attività extra calcio dei propri tesserati. In generale, poi, per quanto riguarda codice disciplinare, sanzioni, collegi arbitrali, anche lì pare sia passata la proposta della Lega, quindi ogni squadra a questo punto avrà un proprio regolamento interno, molto accurato, con sanzioni salate, quindi atteggiamenti come dire, poco ortodossi da parte dei calciatori non saranno più tollerati. Credo sia giusto questo, insomma, certo, c'è una richiesta di professionalità fuori e dentro dal campo. Certo. Moneta, ho detto. Allora, arriviamo invece a monete insomma di altro peso, insomma ben diversamente cospicue. Allora, la Serie A alla prova del fantadebito, questo prospetto che il Sole a tua firma ha pubblicato domenica e da cui risulta, non so, vado in ordine sparso, che i risultati di esercizio, no, della stagione 2009? Sì, stiamo parlando, ecco, questo è importante precisarlo, dei bilanci chiusi nel 2009, quindi al 30 giugno 2009 o al 31 dicembre 2009. Ci sono cinque squadre che, per esempio, come il Milan, che fanno il consolidato con la Fininvest e quindi chiudono il bilancio sull'anno solare. Sì. Le altre 15 squadre invece chiudono i bilanci in relazione alla stagione calcistica. Questo è importante perché gli ultimi bilanci, quelli del 2010, seppur approvati al 30 giugno 2010, non sono stati ancora depositati, comunque non sono disponibili. Certo. E in questo mi permetto appunto di chiedere, come professionista, ma sarebbe importante proprio alla luce di quello che richiede il fair play finanziario alla società, una maggiore celerità nel deposito dei bilanci, oltre che una maggiore trasparenza di molti aspetti che riguardano la contabilità interna, proprio per permettere una valutazione più omogenea di quelli che sono i risultati di esercizio e appunto dell'indebitamento. Vado con i numeri? I numeri sono molti e ci, guarda, si può confondere. Ne leggo qualcuno io, una libera selezione, no? Che faccio? E poi ne parliamo subito dopo questo intervallo. Ma prima di dare la linea agli aggiornamenti del traffico, insomma, Milan meno 463. Stiamo parlando di milioni di euro. I debiti, sì. Meno 463. Inter meno 431, 431. Juventus meno 153. Roma meno 143, Lazio meno 138, Parma meno 86, Sampdoria meno 84, sto slalomeggiando, per Udinese meno 85, Fischia così come il Palermo, praticamente alla pari, e Cesena meno 14, Chievo meno 46, mi sembrano cifre davvero. Cesena solo 14 milioni. Ecco, Cesena solo 14, infatti è la società più virtuosa che sto vedendo. Oh, torniamo in onda, anche se oggi è un po' tormentato, prende la linea e rientrare in onda. Vabbè, soggiornate così. Fabio, io cederei prima di arrivare ancora però a questi numeri, così poi il discorso lo chiudiamo sul serio. Io sentirei che cosa deve raccontarci Nicola Filippone a proposito del primo giorno d'autunno. Non è un giorno allegrissimo, il 21 settembre, se ci pensiamo bene. Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 settembre 1986, seconda giornata di campionato. Al Comunale di Firenze i viola battono 2-0 la Sampdoria con doppietta dell'argentino Ramon Diaz. Il tecnico della Fiorentina Eugenio Bersellini fa esordire in massima serie Roberto Baggio, promettente 19enne di professione fantasista. La prima stagione in Serie A non sarà semplice per il talento vicentino, che sarà tormentato dagli infortuni. Potrà così scendere in campo solo 5 volte, ma riuscirà comunque a realizzare la sua prima rete in Serie A il 10 maggio 1987 a Napoli, nel giorno del primo scudetto dei partenopei. Complessivamente Baggio ha giocato nella massima serie 452 partite, segnando 204 gol. Però Enzo D'Altamura domanda che passivo ha il Bari. Dunque, l'accontento subito, l'accontento fino a un certo punto, 45 milioni punto 7 e il debito, euro. Il Bari, per quanto riguarda invece il risultato d'esercizio, a meno 19 milioni nel 2009. Il Bari chiude al 31 dicembre 2009, così speriamo di aver accontentato. Di accontentato Enzo. Senti, Marco invece domanda, avete dato cifre sulle squadre, ma io non ci ho capito niente. Marco, è possibile, perché avendole date io. Avevo come dire, previsto questo. La confusione, perché sono numeri che fanno un po'. Spiega come si deve. Allora, la valutazione che abbiamo fatto nasce appunto dal fair play finanziario. Ne abbiamo parlato tanto a livello teorico, questa può essere una prima simulazione pratica. Quando entrerà in vigore, a partire dalla stagione 2013-2014, salvo ulteriori proroghe o aggiustamenti in corso, ci sarà un panel di una sorta di comitato di controllo della UEFA che prenderà e spulcerà gli ultimi tre bilanci delle stagioni precedenti delle squadre che hanno la licenza UEFA, e sono 732, quindi comprese le squadre italiane che pretendono di partecipare alle competizioni internazionali, e dovrà appunto capire se la gestione anno per anno è corretta ed è coerente con i parametri, sì, del finanziario. In poche parole, dovrà verificare se i ricavi di queste squadre coprono tutti i costi di gestione. Nella prima applicazione sarà come dire, consentito un piccolo sforamento, si permetterà uno sforamento sul triennio di 45 milioni nella gestione di esercizio. Sul triennio. Quindi noi abbiamo preso, io ho preso gli ultimi tre bilanci di esercizio per verificare appunto quali squadre come dire, rispondono già a questo parametro. E devo dire che da questo punto di vista le squadre italiane sono messe abbastanza bene, perché sostanzialmente tutte sono in linea con i nuovi parametri della UEFA, tranne le milanesi, ma sappiamo insomma che negli ultimi anni si è cercato, cioè gli ultimi due stagioni che non risultano da questi bilanci per il discorso che abbiamo fatto prima, si è invertita un po' la rotta, in particolare sulla sponda nerazzurra. Sì. Fatto sta che insomma questo spiega perché Moratti non ha comprato nessuno nell'ultima campagna acquisti, piuttosto ha ceduto. L'altro parametro invece che sarà valutato è quello dell'indebitamento, cioè quanti debiti hanno queste società, e quello sono i 2,2 miliardi di euro nel 2009, l'anno scorso erano 1,9 miliardi, quindi si sono aggiunti 245 milioni di debiti. Oltre quindi al risultato d'esercizio, la UEFA valuterà quanti debiti hanno la società, ed è chiaro che se questi debiti sono stati fatti per esempio per costruire lo stadio di proprietà, il famigerato stadio di proprietà, se sono stati fatti questi debiti per rafforzare i vivai, ci sarà, insomma, si chiuderà un occhio. Sì, sarà un'indulgenza che in fondo avrà un fondamento. Viceversa, no? Se questi debiti corrispondono per esempio a prestiti che il proprietario, mi riferisco in questo caso al Chelsea di Abramovic, ha fatto alla propria squadra per ripianare i debiti, questo sarà visto come un elemento di distonia rispetto ai criteri del fair play, quindi paradossalmente il Chelsea sarebbe insomma escluso dalle competizioni internazionali. Questi due parametri bisogna iniziare a farci un po' di abitudine, perché saranno sempre più sulle cronache non solo del nostro giornale ma di tutti i giornali sportivi, perché la possibilità di accedere alle competizioni internazionali per un motivo o per un altro passerà non solo dal campo ma anche dall'ufficio del commercialista e dalla quadratura dei conti. E questa è una novità indubbiamente non da poco, per carità, ne abbiamo parlato già anche abbastanza spesso, però quando si arriva appunto come hai fatto tu e come ha fatto il Sole domenica ai numeri esatti, cioè è più facile capire quanti rischi concretamente si corrono da qui al 2013 e chi in particolare li corre. Cioè, mi pare che complessivamente tu abbia rassicurato, no, il popolo tifoso, nel senso che con l'eccezione delle milanesi, che però hanno invertito un pochino anche loro la rotta, oddio, forse più l'Inter del Milan recentissimamente, ma insomma questo poi saranno problemi loro dico, è cambiato un pochino quello, ma se no complessivamente tu ci hai detto che le squadre hanno, le società per quanto riguarda i risultati di esercizio sarebbero ammesse, fermo restando che quando entrerà a pieno regime il fair play finanziario sarà tollerato uno scostamento non di 45 milioni ma appena di 5 milioni di rosso d'esercizio, per cui quando effettivamente poi il meccanismo diventerà automatico, perché fino diciamo nei prossimi anni ci sarà una certa tolleranza o discrezionalità nella valutazione, a un certo punto è chiaro che si stabilirà una quota di 5 milioni, addirittura si parla di 3 milioni come massimo rosso di esercizio che si può conseguire, altrimenti si è fuori, e tutti i club europei sono intenzionati a far rispettare e ad adeguarsi a queste norme, per cui il Mallorca per esempio è già uscito è stato eliminato all'Europa League, quindi c'è serietà nell'applicazione di queste norme, insomma io me ne sto occupando anche per segnalare l'importanza, c'è una volontà europea di applicazione di queste regole, quindi non è la solita applicazione a tra luce e vino all'italiana per cui se ne parla tanto e poi in realtà non si applica, no, la UEFA vuole fare sul serio. Platini si sta giocando una candidatura importante alla FIFA con questa battaglia, quindi lui ha tutta l'intenzione di farla applicare. Pino, lei ha chiamato da Brescia, però siamo veramente in chiusura, dica rapidamente. E niente, le volevo dire buongiorno prima buongiorno. Di tutto sì. per via degli arbitri Sì, allora non lo so, io ancora dobbiamo iniziare il campionato e già tutti a sparare addosso alla Croce Rossa. Lei ha perfettamente errori. Ragione, Pino, ne parliamo domani. È un atteggiamento seriamente irresponsabile, ma purtroppo non inedito per le nostre latitudini. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Per i suoi numeri soprattutto oggi. Grazie a Luca Rinaldi in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.